Capitolo 11. Metodi sviluppati sulla base dell'osservazione. Il fatto che attirò per primo l'attenzione del pubblico sul mio esperimento fu l'esplosione della scrittura. E non si trattava solo della scrittura, ma della personalità umana del bambino. Una montagna può sembrare solida ed eternamente immutata, eppure contiene un fuoco interno che un giorno irrompe fuori dalla crosta esterna. È un'esplosione di fuoco, fumo e sostanze sconosciute che rivela agli osservatori che cosa deve essere l'interno della Terra. La nostra esplosione era qualche cosa di simile e si era verificata a causa di circostanze che allora sembravano le meno favorevoli a una tale rivelazione. Povertà e ignoranza, mancanza di insegnanti, programmi e regole significavano assenza di qualsiasi base e proprio questa assenza permetteva all'anima di espandersi. Tutti gli ostacoli erano stati involontariamente rimossi, ma nessuno allora sapeva in che cosa questi ostacoli consistessero. Dobbiamo insomma riconoscere che quelle esplosioni non furono provocate da un vero e proprio metodo pedagogico, perché un tale metodo non esisteva ancora. Il lavoro psicologico venne in un secondo tempo e il metodo elaborato fu in realtà il risultato di questa vulcanica esplosione della mentalità infantile. La stampa l'annunciava con titoli a lettere di scatola come la scoperta dell'anima umana. La nuova scienza che ne seguì si basava non sull'intuizione ma sulla percezione diretta e i fatti accertati si dividono in due gruppi. L'un gruppo dimostra che la mente del bambino è capace di acquisizione culturale a un'età incredibilmente precoce, ma solo attraverso una propria attività indipendente. L'altro riguarda lo sviluppo del carattere, proprio in un'età che gli educatori del passato consideravano troppo giovane perché fattori esterni potessero influire sulla formazione caratteriale. Avevano torto perché ritenevano che toccasse all'adulto influire sul carattere del bambino. E cambiare il male in bene è un problema eterno, ma il periodo fra i 3 e 6 anni è proprio quello in cui si forma il carattere, che in ognuno si sviluppa secondo le sue proprie leggi, purché non sia ostacolato e represso. Il bambino si concentra sugli oggetti che ha già in mente per averli assorbiti nel periodo precedente, poiché ogni conquista culturale tende a rimanere nella mente e ad esservi meditata. L'esplosione della scrittura era dovuta alla precedente conquista del linguaggio e a una sensibilità linguistica che cessa verso i 5 anni e mezzo o 6 anni. Così, solo a quest'età si poteva imparare a scrivere con tanta gioia e tanto entusiasmo, mentre i bambini di 8 o 9 anni non mostravano capacità così pronte. Si constatò che quei bambini si erano indirettamente preparati gli organi necessari alla scrittura. Così la preparazione indiretta fu adottata come parte integrante del metodo Montessori. Avevamo osservato che la natura prepara indirettamente nell'embrione, non dà ordini finché gli organi non siano stati preparati ad obbedire. Il carattere può essere formato solo in questo stesso modo. Non si guadagna niente con la semplice imitazione o con l'obbedienza forzata. Ci deve essere una preparazione interna che renda possibile l'obbedienza. E tale preparazione è indiretta. Ne risulta molto chiaramente la necessità di offrire ai bambini un ambiente preparato e una libertà in cui l'anima possa sviluppare le sue possibilità. Per lo sviluppo del linguaggio, il bambino aveva seguito, nella prima fase, ciò che poteva quasi sembrare un ordine grammaticale, procedendo dai suoni e dalle sillabe ai nomi, aggettivi, avverbi, congiunzioni, verbi e preposizioni. Di conseguenza pensammo che sarebbe stato utile seguire un metodo grammaticale nel secondo periodo e il nostro primo insegnamento linguistico fu la grammatica. Sembra assurdo, secondo il comune modo di pensare, che si insegni la grammatica a 3 anni, prima che il bambino sappia leggere e scrivere. Ma i piccoli mostrarono per tale insegnamento un appassionato interesse che invece i più grandicelli non avevano. La grammatica, dopo tutto, è la costruzione di un linguaggio. Il bambino doveva proprio costruirlo e in essa trovava un aiuto. Le semplici e incolte maestre che avevamo nelle nostre scuole, vedendo la fame di parole che i bambini dimostravano, ne scrivevano per essi quante potevano e poi venivano da me a chiederne altre, dopo aver esaurito il loro limitato vocabolario. Decidemmo di provare, a titolo di esperimento, ad offrire loro i termini necessari per una cultura più avanzata, come per esempio i nomi delle figure geometriche, poligono, trapezio ed altre della stessa difficoltà. I bambini le impararono facilmente in un solo giorno. Passammo poi agli strumenti scientifici, il termometro, il barometro e a quelli botanici, petali, sepali, stami, pistillo. Furono tutti accolti con entusiasmo e ce ne chiesero altri, perché l'età dai 3 ai 6 anni ha un'insaziabile sete di parole e nessun vocabolo è abbastanza lungo e complicato per il bambino. Presentammo dunque le parole usate nelle classificazioni di tutte le materie, zoologia, geografia e altre, e l'unica difficoltà risiedeva nelle maestre, che non conoscevano quelle parole e avevano grande difficoltà a ricordarne il significato. La mente del bambino non si limita agli oggetti che gli occhi vedono e alle loro qualità, ma va al di là di tutto questo, rivelando una viva fantasia. I bambini, per i quali una tavola nel gioco diviene una casa, una sedia fa da cavallo e possono vedere con gli occhi dell'immaginazione una fata e il paese delle fate, non hanno difficoltà ad immaginare l'America o il mondo, soprattutto col sussidio di un globo. Alcuni dei nostri bambini di 6 anni avevano un globo e ne stavano parlando tra loro. Quando un piccolino di neppure 4 anni accorse: "Fatemi vedere, questo è il mondo? Ora capisco cosa vuol dire che mio zio ha fatto 3 volte il giro del mondo." Nello stesso tempo si rendeva conto che il globo era solo un modello, perché sapeva che il mondo era immenso. Anche un bambino sotto i 5 anni chiese di vedere uno dei globi che erano stati presentati ai più grandicelli. Questi stavano parlando dell'America senza badare a lui, quando egli li interruppe. "Dov'è New York?" chiese. Gliela mostrarono e subito egli chiese: "Dov'è l'Olanda?" Era il paese in cui appunto ci trovavamo. Quando gli mostrarono il suo paese, il piccino, toccando la zona azzurra del mappamondo, aggiunse: "Allora questo è il mare. Mio padre va in America 2 volte all'anno e si ferma a New York. Appena è partito, la mamma ci dice: 'Bambini, papà è sul mare.' Poi ci dice che è a New York. Ora è di nuovo sul mare e presto andremo a prenderlo a Rotterdam." Aveva sentito tanto parlare dell'America ed ora era felice di scoprirla, di arrivare ad orientarsi nel suo ambiente mentale, proprio come in precedenza aveva dovuto fare nell'ambiente fisico. Per impadronirsi del mondo spirituale del suo tempo, egli doveva cogliere le parole in bocca ai maggiori di lui, in famiglia, e poi rivestirle delle proprie immagini. Questa forza di immaginazione nel bambino sotto i 6 anni è di solito sprecata in balocchi, ma certamente noi possiamo offrirgli oggetti reali su cui far lavorare la sua immaginazione, ponendolo così in un rapporto più concreto e preciso col suo ambiente. Un'altra ben nota caratteristica dei bambini di quest'età è quella di porre continuamente domande in cerca della verità delle cose. Queste domande dovrebbero apparire interessanti agli adulti ed essere considerate non un fastidio, ma l'espressione di una mente in cerca di informazione. Tuttavia, i bambini non sono in grado di seguire lunghe spiegazioni. Hanno bisogno di risposte semplici, se è possibile, appoggiate da qualche oggetto illustrativo, come il globo per le domande di geografia. Per la formazione degli insegnanti è necessaria una certa preparazione, perché non è certo la nostra logica che può risolvere i problemi del bambino. Dobbiamo conoscere il suo precedente sviluppo e liberarci piuttosto delle nostre idee preconcette. Per educare la mente di un bambino fra i 3 e i 6 anni si deve procedere con grande tatto e delicatezza. Fortunatamente il bambino prende dall'ambiente piuttosto che dal maestro, che deve solo stargli accanto e prestare il suo aiuto quando richiesto. Passando ora all'importante questione del carattere e dell'educazione morale, anche qui i nostri esperimenti ci hanno mostrato che si deve considerarla da un punto di vista diverso, aiutando la costruzione del carattere piuttosto che insegnandola. Anche qui il periodo che termina con i 6 anni è della massima importanza, poiché in esso si va formando il carattere, non sugli esempi e in seguito alle pressioni esterne, ma in base alla natura stessa. Dopo la nascita vengono quei 3 anni importantissimi che abbiamo dinanzi considerato, durante i quali il bambino subisce influenze che possono alterarne il carattere per tutta la vita. Il carattere infatti si forma in questo periodo, dallo scontro con gli ostacoli o in libertà da ogni impedimento. Se durante il concepimento, la gestazione, la nascita e la prima fase post-natale il bambino è stato curato in modo scientifico, all'età di 3 anni dovrebbe essere un individuo modello. Ma questo ben raramente avviene perché lo sviluppo infantile di solito incontra una quantità di ostacoli. I difetti di carattere dovuti a difficoltà sorte dopo la nascita sono meno gravi di quelli provocati nel periodo della gestazione. E questi a loro volta sono meno gravi di quelli che risalgono al concepimento. Se provocati nel periodo postnatale, i difetti si possono curare fra i 3 e i 6 anni, poiché questa è l'epoca in cui il bambino impara ad adattarsi e a perfezionare le sue facoltà. Ma i difetti fisici e mentali dovuti al trauma della nascita o a qualche causa ancora precedente sono difficilissimi da correggere. L'ebetismo, l'epilessia e la paralisi sono tare organiche e non possono essere guarite per quanto cure si facciano. Invece i difetti che non sono organici si possono correggere se curati prima dei 6 anni, altrimenti non solo resteranno, ma cresceranno e si rafforzeranno. Un bambino di 6 anni ci appare come un accumulo di caratteristiche che non sono realmente sue, ma sono acquisite mediante le esperienze fatte. Se dai 3 ai 6 anni è stato trascurato, difficilmente acquisterà quella coscienza morale che dovrebbe svilupparsi dai 7 anni ai 12. Oppure potrebbe risultare deficiente come intelligenza, privo di carattere morale e di capacità di apprendere, e gli diviene un uomo tarato e porta per sempre il segno delle passate sconfitte dell'anima. Nelle nostre scuole e in molte altre scuole moderne si tengono schede biologiche di ogni alunno in modo da poter conoscere i disturbi dei diversi periodi e stabilire in conseguenza il trattamento necessario. Chiediamo se esistono malattie ereditarie, che età avevano i genitori quando il bambino è nato, se la madre non subì incidenti o shock nervosi durante la gestazione, se la nascita è stata normale e il bambino è nato bene o se era asfittico. Poi ci informiamo sulla vita familiare, se i genitori o la bambinaia sono stati severi o se il bambino ha subito qualche trauma. Questa piccola indagine è necessaria perché quasi tutti i bambini vengono da noi con caratteristiche strane e cattive tendenze che devono venire individuate e comprese per essere curate. Tutte queste deviazioni dalla normalità entrano quasi immediatamente nel campo di ciò che la gente usa chiamare, piuttosto vagamente, carattere. In questo campo si possono individuare due gruppi, uno dei bambini forti che sanno superare gli ostacoli e l'altro dei deboli che soccombono. I bambini forti mostrano una predisposizione alla collera, agli atti di ribellione e di distruzione, bramosia di possesso ed egoismo, incapacità di attenzione e disordine mentale. Questi bambini solitamente gridano e fanno chiasso, amano inquietare gli altri, sono crudeli con gli animali. Spesso sono anche ghiotti. I bambini deboli sono passivi e presentano difetti negativi, pigrizia, inerzia, piangono per ottenere le cose e vogliono che qualcuno faccia tutto per loro. Temono ogni cosa che riesca loro nuova e si aggrappano agli adulti. Vogliono sempre essere divertiti e si annoiano e si stancano presto. Hanno il difetto di mentire, rubare, che sono fondamentalmente forme di autodifesa. A queste difficoltà si accompagnano taluni disturbi fisici, i quali mostrano così un'origine psichica che non si deve confondere con la vera malattia fisica, per esempio l'inappetenza o il suo contrario, la ghiottoneria e le gastriti che ne derivano. La frequenza degli incubi e la paura del buio danneggiano la salute fisica e sono causa di anemia. Nessuna medicina può curare questi disturbi, poiché sono provocati da una causa psichica. I bambini che hanno questi difetti, specialmente quelli del tipo forte, sono considerati una vera disgrazia per la loro famiglia, che li chiude nella nursery o in collegio, sicché finiscono per essere orfani, benché i loro genitori siano vivi. Alcuni genitori adottano il sistema della severità, sculacciano i piccoli ribelli, li sgridano, li mandano a letto senza cena, ma i bambini o peggiorano o sviluppano l'equivalente passivo del loro difetto. Allora si tenta la via della persuasione, si cerca di ragionare con loro e di toccare la corda del sentimento. Perché fai dispiacere a mammina? Ma non serve a nulla. I genitori di bambini irregrediti di tipo passivo di solito li lasciano alla loro infingardaggine. La madre pensa che il suo ragazzino è buono e obbediente. Quando si aggrappa a lei e non vuole andare a dormire senza averla al suo fianco, lo interpreta come un segno del grande amore del figlioletto. Ma ben presto scopre che il piccolo è lento e ritardato nel camminare e nel parlare. Benché sia in buona salute, ha paura di tutto e non vuol mangiare. Bisogna raccontargli le fiabe per fargli ingoiare un boccone. La madre si convince che è un bambino spirituale, destinato forse a divenire un santo o un poeta, ma ben presto chiama il dottore perché gli prescriva qualche medicina. Queste malattie psichiche sono una bazza per il medico di famiglia. Uno dei fatti che resero famose le nostre prime scuole fu la scomparsa di tutti questi difetti di carattere, che era dovuta a una cosa sola. I bambini potevano compiere in piena libertà i loro esperimenti sull'ambiente e queste esperienze erano un prezioso alimento per la mente che aveva sofferto la fame. Quando si era destato in loro un qualche interesse, essi moltiplicavano gli esercizi intorno a quel centro e passavano da una concentrazione all'altra. Quando il bambino ha raggiunto una fase in cui è capace di concentrarsi su un determinato tema e lavorarvi intorno, i difetti scompaiono. Il soggetto disordinato diviene ordinato, il passivo diviene attivo e quello che disturbava ora si prodiga ad aiutare. Risulta così chiaro che quei difetti non erano caratteristiche reali, ma acquisite. Il nostro consiglio alle madri è dunque di far lavorare i loro bambini a qualche occupazione interessante, senza mai interromperli nell'attività che hanno intrapresa. Dolcezza, severità, medicine non servono a nulla. Noi non facciamo del sentimentalismo sui bambini terribili e d'altra parte non li giudichiamo neanche stupidi. Non servirebbe a nulla, quando essi semplicemente hanno bisogno di alimento mentale. L'uomo è per natura un essere intellettuale e ha bisogno del cibo mentale ancora più che del cibo fisico. Diversamente dagli altri animali, deve costruirsi il suo comportamento dalla vita e dalle sue esperienze. E se lo si pone sul giusto cammino, tutto andrà bene. Capitolo 12. Lo spauracchio della disciplina. Si è dunque constatato che l'educazione morale consiste soltanto nello sviluppo del carattere e che i difetti possono essere eliminati senza bisogno di predicozio o punizioni, e neppure di buoni esempi da parte degli adulti. Non occorrono né minacce né promesse, ma favorevoli condizioni di vita. Oltre ai due gruppi già considerati, quello dei cosiddetti buoni o passivi e quello dei ribelli, la gente riconosce generalmente un terzo tipo di bambino, che gode di ottima salute, di viva immaginazione, passa da una cosa all'altra ed è considerato particolarmente brillante dai suoi genitori. Insomma, un bambino superiore. Ora, nelle mie scuole ho constatato che tutte queste caratteristiche sparivano non appena il bambino si interessava a un'attività che attirava la sua attenzione. I cosiddetti buoni, i cattivi e i superiori si fondevano in un solo tipo di bambino che non conservava nessuna di quelle caratteristiche. Questo dimostra che fino allora la gente non aveva saputo giudicare rettamente il buono e il cattivo e si era sbagliata nelle sue valutazioni. Era evidente che il carattere fondamentale dell'attività infantile era la costanza nel lavoro e la spontaneità nella scelta del lavoro, senza la guida di alcun insegnante. Seguendo una sua guida interiore, ognuno si occupava di un lavoro diverso, che gli dava gioia e soddisfazione. E a questo punto compariva qualcosa d'altro che non si era mai visto prima fra i bambini, una disciplina spontanea. Questo colpiva i visitatori più ancora di quanto non avesse fatto l'esplosione della scrittura. I bambini si muovevano tutti intorno, cercavano liberamente un lavoro che li interessasse, concentrandosi ognuno su un compito diverso. Eppure il gruppo nell'insieme presentava il quadro di una perfetta disciplina. Così il problema era risolto. Per ottenere la disciplina, diamo la libertà. Non è necessario che l'adulto sia un mentore o un esempio di buona condotta. È necessario che egli dia al bambino quelle possibilità di azione che finora gli sono state negate. Nei primi tempi sembrava impossibile che un gruppo di 40 bambini potesse starsene in una stanza a lavorare tranquillamente, senza la guida di una maestra, soprattutto bambini dai 3 ai 5 anni. I giornali lo proclamarono un fatto meraviglioso, se era vero, ma incredibile. I visitatori cercavano di scoprire che trucco usavo, perché erano sicuri che si trattasse di un trucco. Alcuni dissero persino che quel risultato era dovuto al mio magnetismo personale o a una forma di ipnotismo, ma io potei rispondere: questo accadeva a New York mentre io ero a Roma. Non si trattava infatti di un fenomeno sporadico, ma si verificava in tutte le nostre scuole, che si erano diffuse in America, Nuova Zelanda, Francia e Inghilterra. Altri scettici conclusero che i bambini erano stati preparati dalla maestra e che lei li dirigeva con lo sguardo, esprimendo in qualche modo approvazione o disapprovazione. Ma le prove si accumulavano da tutti i paesi e un fattore comune era la sorprendente disciplina dei bambini normalizzati. Così infatti chiamavo il tipo di bambino sviluppato nelle nostre scuole in confronto ai bambini deviati. Nella mia prima casa dei bambini, tutti i piccoli ospiti provenivano da un grande casamento operaio. Fra gli altri increduli v'era l'ambasciatore della Repubblica Argentina che si trovava a Roma. Egli decise di visitare personalmente la scuola e senza preavviso, in modo che non si potessero fare preparativi per il suo arrivo. Parlò di questa sua intenzione alla figlia del primo ministro italiano, che gli promise di accompagnarlo senza avvertire la scuola. Avevano dimenticato che era giovedì, giorno di vacanza nelle scuole elementari italiane, e la scuola era chiusa. Ma un bambinetto venne loro incontro e chiese che cosa desideravano. Aveva solo 4 anni, e i bambini poveri della sua età di solito non parlano con tanta disinvoltura con dei ricchi stranieri. Invece questo piccino aveva un modo di fare perfettamente naturale, e quando gli dissero che volevano vedere la scuola, ed erano assai spiacenti che fosse chiusa, rispose subito: «Oh, non importa, il portiere ha la chiave e tutti i bambini abitano qui vicino, posso andare a chiamarli». Con grande sorpresa dei visitatori, i piccoli alunni accorsero ben volentieri e lavorarono con entusiasmo e in perfetto ordine, benché la maestra non fosse presente. L'ambasciatore dichiarò che nessun caso era mai stato più incontestabilmente dimostrato e divenne un convinto fautore del metodo. Un'altra occasione simile si presentò alla Fiera Mondiale di San Francisco, al momento dell'apertura del canale di Panama. Nel padiglione dedicato all'educazione vi era una piccola aula Montessori con pareti di vetro, in modo che la gente potesse osservare dall'esterno senza disturbare i bambini, entrando continuamente. La maestra, Helen Parkhurst, chiudeva l'aula di notte e affidava la chiave a un custode. Un giorno questo custode non si presentò perché aveva avuto un incidente. I bambini e l'insegnante erano chiusi fuori ad aspettare, e insieme a loro una piccola folla di visitatori. Infine, Miss Parkhurst dovette annunciare che quel giorno non era possibile entrare a lavorare. Ma uno dei bambini vide una finestra aperta e disse: «Sollevateci fin là, entreremo dalla finestra e ci metteremo al lavoro». La finestra era abbastanza larga da lasciar passare un bambino. E Miss Parkhurst osservò: «Questo andrà bene per voi, ma io non posso passare da quella finestra». «Non importa», le risposero, «tanto lei non lavora. Lei può sedersi fuori e guardare con gli altri». Così la difficoltà fu superata e il metodo Montessori riportò un'insperata vittoria. Solo dopo i 6 anni il bambino o la bambina può trarre beneficio da un insegnamento morale, perché fra i 6 e i 12 anni si sveglia la coscienza e comincia a provare interesse per i problemi del bene e del male. I problemi principali per quel che riguarda lo sviluppo del carattere sono quelli della volontà e dell'obbedienza. In generale, ci si propone di piegare la volontà del bambino, sostituendo ad essa la propria, e imponendo al bambino o alla bambina l'obbedienza. In questo campo regna una gran confusione che richiede qualche chiarimento. Gli studi biologici ci dicono che la volontà è parte di quella forza universale chiamata ormè, che non è una forza fisica, ma una cosmica energia vitale in via di evoluzione. L'evoluzione è governata da leggi ed è molto lontana dall'essere arbitraria o casuale. Come espressione di questa forza, la volontà deve plasmare il suo comportamento e diviene parzialmente cosciente nel bambino o nella bambina non appena questi hanno una certa azione da portare avanti, ossia solo attraverso l'esperienza. Nell'essere naturale, la volontà obbedisce a determinate leggi. È un errore pensare che le azioni volontarie dei bambini siano disordinate e talvolta violente. Tali azioni non sono espressioni della volontà del bambino o della bambina perché sono al di fuori del campo dell'ormè. È come se davanti ai contorcimenti di un uomo in preda alle convulsioni noi li scambiassimo per atti dettati dalla sua volontà. Se consideriamo tutti i movimenti disordinati dell'uomo o del bambino come dettati dalla volontà, è naturale pensare che questa debba essere piegata o spezzata per rendere la persona obbediente. Un grande educatore ha detto: l'essenza dell'educazione può essere sintetizzata in una sola parola, obbedienza. Secondo la logica umana, si dovrebbe concludere che rendendo un bambino obbediente gli si possono insegnare tutte le virtù ed egli deve necessariamente riuscire virtuoso. Questo significherebbe che il difetto fondamentale del bambino è la disobbedienza e il problema è ben lontano dall'essere risolto. Fortunatamente non è un problema insolubile. La volontà dell'uomo non si esprime nel disordine o nella violenza. Questo è il segno della sofferenza e della violazione. Ma mentre spezzare la volontà è un atto istantaneo, il suo sviluppo è un processo lento perché è crescita. E dipende dall'aiuto dell'ambiente. Questo lungo processo di sviluppo della volontà può essere paragonato alla filatura, sviluppato dall'attività in un campo d'azione sempre più vasto. Il filo della volontà si rafforza di giorno in giorno, associando queste attività con uno scopo centrale, come per esempio apparecchiare la tavola o servire il cibo. La libera volontà dei bambini può essere diretta in modo continuo verso lo stesso fine e si ottiene così una società in cui la coesione è data dalla volontà, piuttosto che una società fondata sulla coesione della simpatia. L'emozione non è un fattore primario in questo caso, ma la volontà è la forza coesiva e se tutti necessitano o vogliono la stessa cosa, ne sorge un'associazione di calmo comportamento che è meravigliosa a vedersi. Ma prima si deve sviluppare la volontà in ogni bambino. Un fatto singolare accaduto nella mia prima scuola portò un nuovo contributo pratico al mio metodo educativo, la lezione del silenzio. Mi accadde dunque di entrare in una classe di 45 allievi che era tutta assorta nel lavoro. I bambini avevano già sviluppato le loro volontà. Portavo in braccio un neonato di 4 mesi, con le gambe strettamente fasciate secondo una vecchia usanza italiana, in modo che restavano per forza ferme e immobili. Mostrandola ai piccoli alunni, dissi: «C'è qui un visitatore, guardate com'è quieto. Sono sicura che voi non sareste capaci di restare così tranquilli». Pensavo che avrebbero riso al mio scherzo, invece si fecero tutti seri. Accostarono i piedini e rimasero immobili, cercando di non fare alcun movimento. Credendo che non avessero capito ciò che intendevo dire, ripresi: «Se poteste sentire come respira leggero, voi non potreste respirare così lievemente perché i vostri petti sono più grandi». Pensai ancora che si sarebbero messi a ridere, ma non fu così. Continuarono a tenere i piedi fermi e cercarono persino di controllare il respiro per renderlo il più possibile silenzioso, fissandomi con un'espressione seria e concentrata. Allora dissi: «Io ora uscirò di qui silenziosamente, ma il piccino sarà ancora più silenzioso di me, non si muoverà e non farà alcun rumore». Riportai il neonato alla madre e tornai dai piccoli allievi, che trovai ancora immobili con un'espressione grave che diceva: «Vede, lei ha fatto un po' di rumore, ma noi siamo capaci di restare fermi e zitti, proprio come quel piccino». Così tutti i bambini avevano la stessa volontà. Tutti erano spinti a fare la stessa cosa e il risultato fu una classe di 45 alunni perfettamente fermi e silenziosi. La gente si sarebbe domandata come avevamo potuto ottenere una tale mirabile disciplina, eppure la mia sola intenzione era stata quella di farli ridere. Il silenzio era così profondo che io dissi: "Che silenzio!" E anche i bambini sembrarono apprezzarne l'incanto e rimasero quieti, controllando il respiro, finché io cominciai a sentire suoni che non avevo notato prima: il tic-tac dell'orologio, una goccia d'acqua che cadeva da un rubinetto, il ronzio delle mosche. Questo silenzio dava un vivo piacere ai bambini, e da questo fatto derivò un tratto caratteristico della nostra scuola che permetteva di misurare la forza di volontà dei bambini. Esercitandola, la volontà si rafforzava e il periodo di silenzio diveniva più lungo. Si bisbigliava il nome di ogni bambino e quello chiamato veniva avanti silenziosamente, mentre gli altri restavano immobili. E poiché ciascuno camminava con somma attenzione e molto lentamente per non fare rumore, gli ultimi chiamati dovevano aspettare un bel po' di tempo. Questi bambini dimostravano di possedere un potere inibitorio assai più forte di molti adulti, e la volontà e l'inibizione sono appunto i fattori dell'obbedienza. Io avevo stimolato senza volerlo quella prima esperienza del silenzio, portando in classe il neonato. Ma non potevo sempre dipendere da una presenza casuale e volevo risvegliare ancora l'interesse per quell'esercizio. Trovai che il modo migliore era chiedere loro: "Vi piacerebbe fare il silenzio?" Immediatamente vi era un grande entusiasmo e scoprii che potevo comandare il silenzio ed essere obbedita. Interessante a questo proposito è l'esperienza di una maestra che aveva già insegnato per una decina di anni. Constatò che doveva astenersi da dare disposizioni in anticipo, come per esempio: "Riponete ogni cosa in bell'ordine prima di andare a casa questa sera", perché i bambini passavano immediatamente all'azione prima che essa avesse terminato la frase e il suo significato fosse chiaro. La stessa pronta risposta cominciò a verificarsi ad ogni comando, ed ella si sentiva molto responsabile quando parlava, a causa appunto di questa reazione immediata. In verità, l'obbedienza è l'ultima fase dello sviluppo della volontà, sicché solo lo sviluppo della volontà rende possibile l'obbedienza. E il buon maestro imparerà ad astenersi scrupolosamente dall'approfittare dell'obbedienza dei bambini e delle bambine. Chi sta in alto e ha un compito di guida dovrebbe sentire la responsabilità, non l'autorità della sua posizione. Dopo i 7 anni i bambini andranno in cerca di una tale guida. Prima di quest'età, essi seguono piuttosto un istinto di coesione sociale. Lo sviluppo dell'obbedienza avviene in 3 fasi. La capacità fisiologica di eseguire il compito: finché questa capacità non si è sviluppata, il bambino può obbedire un giorno e rifiutare il giorno dopo, non per cattiva volontà, ma per mancanza di uno sviluppo completo di questo stadio. 2. La capacità di obbedire sempre, automaticamente. 3. La forma più alta di obbedienza, assai rara negli adulti, che consiste nell'essere ansioso, bramoso e felice di obbedire. Se un bambino esegue i comandi del maestro solo perché ne ha paura o perché si sfrutta il suo affetto, non ha una volontà propria e l'obbedienza ottenuta con la repressione della volontà è di fatto oppressione. Tale è spesso l'obbedienza ottenuta nelle scuole, ma la forma più raffinata di disciplina è quella di ottenere l'obbedienza da volontà sviluppate, e questo si basa su una società realizzata per coesione, che rappresenta il primo passo verso la società organizzata. Questa coesione sociale può essere paragonata all'ordito di un tessuto in cui i fili della personalità sono disposti fianco a fianco e fissati a qualche cosa, perché restino in ordine. Nel nostro caso, i fili della personalità del bambino o della bambina vengono fissati dall'ambiente e dopo i 6 anni un altro filo incomincia a collegare quei fili separati, intessendosi su e giù per organizzarli. Una volta intrecciati saldamente, non hanno più bisogno di supporto. Questo ci permette di gettare uno sguardo nel corso naturale dell'embriologia sociale. Di solito si considera la società basata sul governo e sulle leggi. I bambini ci insegnano che debbono esserci prima degli individui di volontà sviluppata e poi un appello che li inviti a unirsi come passo preliminare di qualsiasi organizzazione. È necessaria anzitutto la forza di volontà, poi la coesione data dal sentimento e infine la coesione data dalla volontà. Capitolo 13. Come deve essere la maestra montessoriana? Si dà troppo spesso un giudizio superficiale del metodo Montessori, affermando che esso esige ben poco dalla maestra, la quale deve astenersi dall'interferire e lasciare i bambini alla loro propria attività. Ma quando si considera il materiale didattico, la sua quantità e l'ordine e i particolari della sua presentazione, il compito dell'insegnante ci apparirà insieme attivo e complesso. Non si può certo dire che la maestra montessoriana sia inattiva laddove la comune insegnante è attiva. Piuttosto, tutte le attività che abbiamo descritto sono dovute alla preparazione e alla guida attiva della maestra, e la sua finale inattività è un segno del suo successo, poiché dimostra che il suo compito è stato felicemente condotto a termine. Bravi gli insegnanti che hanno saputo portare la loro classe a un punto in cui possono dire: che io sia presente o no, la mia classe lavora da sola. Il gruppo ha acquistato autonomia. Per arrivare a questo successo, la formazione della maestra deve seguire una determinata linea. Una comune maestra non può trasformarsi in una maestra montessoriana. La maestra montessoriana deve essere creata ex novo, dopo che si sia liberata da ogni pregiudizio pedagogico. Il primo passo è l'autopreparazione dell'immaginazione, perché la maestra montessoriana deve vedere un bambino che non esiste ancora, materialmente parlando. Deve avere fede nel bambino che si rivelerà per mezzo del lavoro. I diversi tipi di caratteri deviati non intaccano la fiducia di questa maestra, che vede con gli occhi dello spirito un tipo diverso di bambino e aspetta con fiducia che questo essere nuovo si manifesti quando sia attratto da un lavoro che stimoli il suo interesse. Essa attende che bambini e bambine mostrino i primi sintomi della capacità di concentrazione. In questo lavoro ci sono tre fasi di sviluppo. La prima è come custode e protettrice dell'ambiente. La maestra concentra la sua attenzione sulle cose invece di preoccuparsi dei problemi dei bambini difficili, sapendo che dall'ambiente stesso verrà la cura. Qui infatti sta il centro di interesse che dovrà polarizzare la volontà del bambino. Il materiale didattico deve essere sempre bello, lucente e in buone condizioni, senza pezzi mancanti, in modo che sembri nuovo al bambino e sia completo e pronto all'uso. La maestra che fa parte dell'ambiente deve essere anch'ella attraente, preferibilmente giovane, bella, vestita con buon gusto, profumata di pulizia, allegra e graziosamente dignitosa. Questo è l'ideale, e se non potrà essere sempre raggiunto del tutto, almeno la maestra che si rivolge ai bambini tenga presente che ha davanti delle persone grandi a cui deve rispetto e comprensione. Dovrebbe studiare i suoi movimenti, rendendoli il più possibile gentili e garbati, in modo che il bambino possa inconsciamente renderle l'omaggio di considerarla bella come sua madre, che è naturalmente il suo ideale di bellezza. 2. Nella seconda fase, la maestra entra in contatto coi bambini, che sono ancora in pieno disordine, con quelle menti vagabonde e senza meta, che si tratta appunto di attirare e concentrare su un lavoro. La maestra deve essere convincente, deve avere un certo fascino e saperlo adoperare. Può usare qualsiasi mezzo, tranne naturalmente il bastone, per conquistare l'attenzione dei piccoli. Può fare più o meno tutto ciò che vuole, perché finora col suo intervento non disturba niente di importante. Così ciò che più occorre è un piglio brillante nel suggerire le varie attività. Bambini e bambine che continuano a molestare gli altri devono essere tenuti a freno, poiché questa non è un'attività di quelle che esigono il completamento del ciclo. 3. Quando si è suscitato l'interesse del bambino, di solito con qualche esercizio di vita pratica, perché non ci sono ancora le condizioni adatte a presentare il materiale, la maestra si ritira nell'ombra e deve astenersi assolutamente dall'interferire. Spesso in questa fase si fanno errori, come per esempio quello di dire un incoraggiante bene, bene, mentre si passa accanto a un bambino che finora era un birichino e finalmente si sta concentrando su di un lavoro. Questo benintenzionato elogio è sufficiente a fare del danno. Il bambino non guarderà più il lavoro per settimane. E ancora, se il piccolo allievo o allieva si trova in difficoltà, la maestra non deve mostrargli come superarla, altrimenti verrà a perdere ogni interesse. Per lui l'elemento eccitante è proprio il superamento della difficoltà, non il lavoro in sé. Un bambino o una bambina che sta sollevando un oggetto troppo pesante per lui o per lei non vuole aiuto. Spesso è sufficiente accorgersi che la maestra lo guarda o la guarda per interrompere il lavoro. Non appena il bimbo o la bimba comincia a concentrarsi nella sua opera, la maestra deve cessare di osservare, come se non esistesse, o almeno non deve avvedersi il bimbo della sua attenzione. Persino nel caso che due bambini vogliano lo stesso materiale, dovrebbero essere lasciati soli a sistemare la loro questione, a meno che non richiedano espressamente l'aiuto della maestra. Il suo compito è solo quello di presentare ai bambini nuovo materiale, quando esauriscono le possibilità del vecchio. Chi ha fatto qualche lavoro in cui ha impegnato una certa concentrazione può magari desiderare dimostrarlo alla maestra per averne l'approvazione. In questo caso si dirà cordialmente e sinceramente com'è bello. La maestra si rallegra col bambino per il successo ottenuto. Le maestre montessoriane non sono ancelle addette al servizio materiale del bambino, per lavarlo, vestirlo e dargli da mangiare. Sanno che c'è bisogno di fare queste cose da solo, sviluppando così la propria autonomia. Dobbiamo aiutare la creatura ad agire da sé, a volere da sé, a pensare da sé. Questo è il sistema di coloro che aspirano a servire lo spirito. La gioia più grande della maestra sarà quella di assistere alle manifestazioni dello spirito che vengono a compensare la sua fede. Ecco la creatura quale dovrebbe essere. Lavoratore, lavoratrice infaticabile, tranquillo, tranquilla, che si impegna volentieri con tutte le sue forze, che cerca di aiutare il debole, mentre sa come rispettare l'indipendenza degli altri. Insomma, una creatura autentica. Le nostre maestre penetrano così nel segreto dell'infanzia e acquistano una conoscenza molto superiore a quella dei comuni insegnanti, che vengono a contatto solo coi fatti superficiali della vita dei loro allievi. Conoscendo il segreto dell'infanzia, la nostra maestra ha per essa un amore profondo. Forse comprende ora per la prima volta che cosa sia realmente l'amore. Certo, questo amore è ben diverso dall'amore personale che si esprime in baci e carezze. E la differenza è proprio dovuta all'opera delle creature che con la rivelazione della loro spiritualità hanno profondamente commosso la maestra, sollevandola a un livello di cui essa non conosceva neppure l'esistenza. Ora vi è giunta e ne è felice. In passato la sua maggiore soddisfazione era forse quella di ricevere il più alto stipendio possibile, lavorando solo lo stretto necessario. Trovava anche un certo appagamento nell'esercitare il suo potere e la sua influenza. E la sua massima aspirazione era quella di diventare direttrice o ispettrice. Ma non vi è vera gioia in tutto questo, e volentieri vi si rinuncerebbe in cambio della felicità spirituale, tanto più alta e intensa che la creatura può dare, perché di loro è il regno dei cieli. Fine.